Il punto di Stefano Folli. Per capire quale sia, nonostante tutti i problemi, la vera forza di Renzi, basta guardare a quello che accade nel partito di Berlusconi. Le liti e le divisioni interne lo stanno paralizzando e rendono impossibile immaginare che da lì possa nascere qualsiasi alternativa. Berlusconi, del resto, non ha alcuna intenzione di crearla, visto che ha trovato il suo equilibrio offrendo un sostegno evidente, talvolta ambiguo, al governo pur senza essere nella maggioranza. Sotto questo aspetto il Presidente del Consiglio può stare tranquillo ancora a lungo. Tuttavia c'è un però. Il patto di ferro Renzi-Berlusconi ha nella riforma elettorale il vero passaggio cruciale. La legge deve essere quella concordata e non un'altra per garantire al centrodestra una rendita di posizione adeguata. Bisogna vedere se le tensioni che si stanno accumulando nel PD e anche fra i centristi permetteranno in realtà che la legge passi così com'è. Potrebbe capitare che le modifiche ne alterino il contenuto fino a mettere in discussione appunto l'accordo con Berlusconi. In fondo è il vero pericolo da cui Renzi deve guardarsi in Parlamento, forse l'unico.